Monelle, racconti giovanili di Devana. Il treno. Martina salì sul treno col cuore che le pesava una tonnellata. Era tardi, passata mezzanotte. Il suo uomo le aveva detto: aspettami in quella pizzeria, passo da casa a prendere la valigia e a vedere se tutto fila liscio. Alle 9 sono da te e partiamo. Lo aveva aspettato fino a mezzanotte e poi aveva deciso che non sarebbe più arrivato. Probabilmente quella strega di sua moglie gli aveva di nuovo nascosto le chiavi della macchina. Maledetta! Cosa diamine vuole ancora da lui? Matrimonio finito, vita impossibile, e lei continua a fare l'inferno come se potesse cambiare qualcosa. Di fatto, però, una vocina dentro di lei insinuò che se anche la moglie del suo uomo gli aveva nascosto le chiavi della macchina, lui avrebbe ben potuto prendere un taxi. Forse non l'amava per davvero. Forse era solo una storia di letto? No, non voleva nemmeno pensarci e si inferocì con se stessa e si diede dell'idiota. Trascinando dolorosamente la valigia, entrò nell'unico scompartimento dove c'era una persona. Aveva paura di restare da sola di notte. In treno. Le avevano raccontato cose tremende e poi su un locale non c'era proprio nessuno. Per fortuna, Bologna era distante solo 45 minuti. Si lasciò cadere affranta sulla poltrona che puzzava di polvere e sospirò. Si guardò in giro. La cabina era buia e lei si pizzicò per convincersi che era sveglia. Ancora una volta si chiese come avesse potuto essere così stupida da cacciarsi in una situazione simile. Il treno si mosse lentamente e il mondo di fuori cominciò a filare all'indietro silenziosamente. La persona seduta vicino al finestrino, che fino a quel momento era rimasta immobile, come se dormisse, emise un lamento piccolo, quasi uno stridio. Martina, spaventata, si tirò la borsa vicino e strizzò gli occhi per cercare di metterla a fuoco nel buio. Si accorse che le sue spalle sobbalzavano leggermente. Stava piangendo. Imbarazzata e stupita, rimase ferma, non sapendo bene come comportarsi. Il treno prese velocità e il movimento ondulatorio afferrò anche lei. Si domandò se per caso non le fosse sembrato che la persona di fronte stesse piangendo, mentre in realtà stava solo seguendo il moto di quel bestione metallico che le portava via. Ma un secondo gemito più lungo la convinse ad avvicinarsi alla persona e a parlarle. «Si sente male?» domandò. La creatura, tutta rannicchiata nel sedile di pelle sporca della seconda classe, alzò il viso e posò su quello di Martina due occhi stravolti, gonfi di tutto il pianto del mondo. Martina rimase interdetta. Credeva che si trattasse di una ragazzina, magari un po' sbronza, e si trovò di fronte invece una donna sulla quarantina col viso stravolto dal dolore. Oh, mio Dio, ma cosa? Guardi, aspetti, le prendo un fazzoletto. Rovistò freneticamente nella borsa e le porse un fazzoletto di carta. L'ho chiuso nel bagno e che provi ad uscire! Quel maiale! Sibilò tra i singulti la donna. Quel maiale? Fece eco Martina, sbalordita. La donna tossì a lungo e non smetteva più di soffiare il naso nel fazzoletto di carta ormai inesistente. Si pulì sul dorso della mano. Guardandola meglio, Martina si rese conto che doveva essere una signora perbene. Era vestita come una donna di buona famiglia scappata di casa all'improvviso. Ai piedi calzava ancora le ciabatte. Sembrò calmarsi un attimo e trovare la forza di spiegarsi meglio. Mio marito, tentò, se la fa con una puttanella che ha la metà dei suoi anni. La mia rovina. Se solo potessi averla tra le mani. La mia vita era tranquilla, un lavoro sicuro, due figli belli e sani, un marito che... E ricominciò a piangere a dirotto, questa volta singhiozzando. Martina non sapeva che fare. Goffamente le mise una mano sulla spalla e, con sua enorme sorpresa, la donna le si rifugiò tra le braccia, biascicando parole che non riusciva a comprendere bene. La tenne stretta a sé, quella sconosciuta, così disperata, dimenticando il suo stesso dolore, sentendo che le faceva bene consolarla. Intanto la notte continuava a correre fuori dal treno nella campagna scura. Il rumore ritmico sulle rotaie un po' alla volta sembrò calmare quel fiume di lacrime e lamenti. La donna si riprese e si pulì gli occhi e il naso sulla manica dell'impermeabile. La giacca di Martina era inzuppata dalla parte dove aveva fatto appoggiare la sua strana compagna di viaggio. «È solo qualche mese», disse la donna con la voce nasale di chi ha pianto tanto. «Almeno mi pare, perché non mi sono mai accorta di nulla prima. Lui è diventato freddo con me, irritabile. Ha cominciato a fermarsi fuori la notte sempre più spesso, fino a quando non ho trovato le ricevute della carta di credito con conti per due persone, in date nelle quali mio marito avrebbe dovuto essere in tutt'altro posto rispetto a quello nel quale erano stati spesi i soldi. Almeno così mi diceva. È stato un incubo quando l'ho scoperto. Mio marito che mi mentiva, dopo 20 anni di matrimonio, dopo tutta la fiducia e la libertà che gli avevo dato. Oh, è troppo, troppo, troppo crudele. Io lo amo. Non posso sopportare che lei me lo porti via. Non ce la faccio. Martina si sentì piena di compassione e solidarietà per quella donna che stava soffrendo per amore, come lei. Allungò una mano e le fece una carezza. Non me lo lascio portare via, continuò, a costo di tenerlo per tutta la vita chiuso nel bagno. Che venga quella a prenderselo. E anche se lo facesse, la chiave non la troverebbe perché sto andando a portarla in un posto sicuro, concluse. Rimasero per un po' in silenzio, poi la donna di nuovo parlò. Oh, ma lei, mi scusi, neanche ci conosciamo. È un'ora insolita. Per viaggiare in treno non starà mica scappando anche lei, eh? Beh, in un certo senso, esitò Martina, proprio scappando, no, ma. Il mio uomo mi ha abbandonata e sto tornando a casa, non. Oh, poverina, la interruppe la donna. Povera bambina, chi può aver avuto cuore a lasciare una creatura così giovane nel cuore della notte? Deve essere per forza un mostro. Oh, non è proprio colpa sua, lo difese timidamente la ragazza, è che ha una moglie impossibile, una vera strega. Da anni non c'è più nulla tra loro, però lei non lo lascia in pace un momento, gli fa dispetti, si comporta quasi da psicopatica. Io lo amo e lui anche, almeno credo, sussurrò quasi a se stessa. Vorremmo vivere insieme, ma la moglie gliene fa di tutti i colori e così, chissà, chissà stasera cosa è successo. Non mi avrebbe mai lasciata in questo modo, deve essere stata lei, quella donna infernale. Esplose rabbiosamente, guardando fuori dal finestrino e immaginando di vedere la moglie del suo uomo impiccata su ogni palo della luce. Povera creatura, anche lei, fece teneramente la donna prendendole una mano. Mica se lo merita. Il mondo è pieno di donnacce. Mi dispiace solo che così giovane gliene sia toccata una pure lei. E adesso dove va? Vado a Bologna e da lì prendo un treno e me ne torno a casa mia. È l'unico posto dove mi posso rifugiare. E lei? Anch'io. Non ne posso più di essere trattata come un'imbecille, sotterfugi, bugie. Spero solo che quella donna soffra quello che sto soffrendo io. Sì, vale lo stesso per me. Nel frattempo erano arrivati a Bologna. Martina si alzò e aiutò la sua stravolta compagna a mettersi in piedi. Tenendola sotto braccio, afferrò la valigia e si avviò verso il portellone. Scese per prima e poi allungò le braccia perché la donna ci si appoggiasse. Quando entrambe furono a terra, si guardarono. Abbracciarsi freneticamente fu un attimo. Si tennero strette, solidali in quel momento di disperazione per entrambe sconosciute, eppure ormai così intime. Senza dirsi nulla, con gli occhi pieni di lacrime, si voltarono verso la scala che portava al sottopassaggio, verso il parcheggio dei taxi, ciascuna diretta verso la sua casa. Fine.